L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Diciannovesima puntata. Magnanimità di Bradamante. Lettura poetica di Giancarlo Sbragia. Narratore Gianni Bonagura. Bradamante parte dal castello di Montalbano col cuore oppresso dalla gelosia. Ruggero, che doveva raggiungerla per chiedere la sua mano, non ritorna. E voci insistenti assicurano che è stato visto al fianco della bella e fiera Marfisa. In sella a Rabicano, il leggerissimo destriero lasciatole in custodia da suo cugino Astolfo, armata della lancia d'oro che appartiene anch'essa al duca inglese, Bradamante percorre le strade dell'Alvernia. Per via la sopravanza un corteo capeggiato da una donna di aspetto principesco e da 3 cavalieri. Sono il re di Svezia, il re di Norvegia e il re di Danimarca, che scortano Ullania, ambasciatrice della regina d'Islanda. Donna non facile, la sovrana islandese aveva stabilito che soltanto al migliore cavaliere della cristianità avrebbe concesso la sua mano. Perciò mandava una sua damigella all'accampamento di Carlo Imperatore, con un ricco scudo da mettere in palio in un torneo. Il vincitore del torneo si sarebbe presentato con lo scudo alla corte d'Islanda e avrebbe sposato la regina. I 3 re scandinavi erano suoi sfortunati pretendenti, ai quali non restava altra speranza che tentare anch'essi la sorte nel torneo. Senza scudiero e senza compagnia scese dal monte e si pose in cammino verso Parigi alla più dritta via, ove era dianzi il campo saracino. Che la novella ancora non s'udia che l'avesse Rinaldo Paladino, aiutandolo Carlo e Malagigi, fatto tor dall'assedio di Parigi. Lasciati avea i Cadurci e la cittade di Caorse alle spalle e tutto il monte ove nasce Dordona e le contrade scopria di Monferrante e di Clermonte, quando venir per le medesime strade vide una donna di benigna fronte c'uno scudo all'arcione avea attaccato e le venian 3 cavalieri a lato. Altre donne e scudier venivano anco qual dietro e qual dinanzi in lunga schiera. Domandò adunque le passò da fianco la figliola d'Amon chi la donna era, e quelle disse: al re del popol franco questa donna mandata messaggera fin di là dal polo artico è venuta per lungo mar dall'isola perduta. Altri perduta, altri hanno nomata Islanda l'isola, donde la regina d'essa di beltà sopra ogni beltà Miranda dal ciel non mai se non a lei concessa lo scudo che vedete a Carlo manda, ma ben compatto e condizione espressa, ch'al miglior cavalier lo dia secondo il suo parer, ch'oggi si trovi al mondo. Ella, come si stima e come in vero, è la più bella donna che mai fosse. Così vorria trovare un cavaliero che sopra ogni altro avesse ardire e posse. Perché fondato e fisso è il suo pensiero da non cader per 100.000 scosse, che sol chi terrà in arme il primo onore abbia d'esser suo amante e suo signore. Spera ch'in Francia, alla famosa corte di Carlo Magno, il cavalier si trove, che d'esser più d'ogni altro ardito e forte abbia fatto veder con 1000 prove. I 3 che son con lei come sue scorte, re sono tutti, e dirovvi anco dove. 1 in Svezia, 1 in Gotia, in Norvegia 1, che pochi pari in arme hanno o nessuno. Questi 3 la cui terra non vicina ma men lontana è all'isola perduta, detta così perché quella marina da pochi naviganti è conosciuta, erano amanti e son della regina e a gara per moglier l'hanno voluta e per aggradir lei cose fatt'hanno che finché giri il ciel dette saranno, ma né questi ella né alcun altro vuole che al mondo in arme esser non creda il primo. che abbiate fatto prove, lor dir suole, in questi luoghi appresso poco istimo, e s'un di voi, qual fra le stelle il sole, fra gli altri duo sarà ben lo sublimo, ma non però che tenga il vanto parme del miglior cavalier ch'oggi portarme. A Carlo Magno, il quale io stimo e onoro pel più savio signor ch'al mondo sia, son per mandare un ricco scudo d'oro, con patto e condizion, che esso lo dia al cavaliero il quale abbia fra loro il vanto e il primo onor di gagliardia. Sia il cavaliero o suo vassallo o d'altri, il parer di quel re vo che mi scaltri. Se poi che Carlo avrà lo scudo avuto e l'avrà dato a quel sì ardito e forte che d'ogni altro migliore abbia creduto che in sua si trovi o in alcun'altra corte, uno di voi sarà che con l'aiuto di sua virtù lo scudo mi riporte. Porrò in quello ogni amore, ogni disio, e quel sarà il marito e il signor mio. La giornata non è ancora finita e Bradamante si sente raccontare un'altra storia complicata. Al castello chiamato la Rocca di Tristano vige la strana legge che se un cavaliere vuole passarvi la notte deve vincere con le armi l'ospite arrivato prima di lui o gli ospiti, se sono in parecchi. Ma una volta che li ha vinti ed è riuscito a entrare, non è detto che possa starvi in pace a lungo. Basta che bussi qualcun altro e gli toccherà di battersi ancora e rischiare d'essere sloggiato a fil di spada. Per le donne vale invece una gara di bellezza. Solo la più bella può essere ospitata, mentre la più brutta resterà allo scoperto. Non sanno più cosa inventare, pensa Bradamante, la cavalleria si va facendo sempre più bizantina. Sarebbe pronta a tirar di lungo, ma l'aria è fresca e minaccia pioggia, e per 4 o 5 leghe non c'è altro castello né locanda. La guerriera bussa alla Rocca di Tristano e annuncia che è pronta a battersi con chi che sia, purché facciano presto. È chiaro che della regola del castello le è rimasta in mente solo la parte che riguarda i cavalieri, perché lei si considera tale e non ha torto. Chi erano gli ospiti del castello? L'ambasciatrice islandese con il suo corteo. I tre re se ne stavano a scalcar polli vicino al caminetto acceso e l'idea di tornar fuori mise loro addosso una grande uggia. Si fecero sul ponte levatoio. Una pioggerellina fitta fitta aveva preso a venir giù sui prati. A quei tre, che se n'erano venuti fin là sognando il dolce cielo della Francia, pareva d'essersi portata dietro l'aria umida del Baltico. Però, a combattere col cattivo tempo, forse si sarebbero trovati avvantaggiati. A questo pensiero si fecero coraggio e avanzarono. Non aveva ancora incrociato la lancia con Bradamante e già il re di Svezia era seduto nel pantano. Dalle finestre illuminate il castellano con la sua gente e con la bella Ullania guardavano quelle 4 ombre giostrare sotto la pioggia sui cavalli inzuppati. La guerriera li vinse tutti e 3. Queste parole han qui fatto venire questi 3 re dal mar tanto discosto che riportarne lo scudo o morire per man di chi l'avrà sanno proposto. Ste molto attenta Bradamante a udire quanto le fu dallo scudier risposto, il qual poi l'entrò innanzi e così punse il suo cavallo che i compagni giunse. Dietro non gli galoppa né gli corre ella. Cadagio il suo cammin dispensa e molte cose tuttavia discorre che son per accadere. E insomma pensa che questo scudo in Francia sia per porre discordia e rissa e nemicizia immensa fra paladini ed altri, se vuol Carlo chiarir chi sia il miglior e a colui darlo. Le preme il cor questo pensier, ma molto più le lo preme e strugge in peggior guisa quel ch'ebbe prima di Ruger, che tolto il suo amor le abbia e datolo a Marfisa. Ogni suo senso in questo è sì sepolto che non mira la strada, né divisa ove arrivar, né se troverà innanzi comodo albergo ove la notte stanzi. Come nave che vento dalla riva o qualch'altro accidente abbia disciolta, va di nocchiero e di governo priva ove la porti o meni il fiume involta, così l'amante giovane veniva tutta a pensare al suo Ruger rivolta, ove vuol Rabican, che molte miglia lontano il cor che dè girar la briglia. Leva al fin gli occhi e vede il sol che il tergo avea mostrato alle città di Bocco e poi s'era attuffato come il mergo in grembo alla nutrice oltre a Marocco, e se disegna che la frasca albergo le dia nei campi fa pensier di sciocco che soffia un vento freddo e l'aria grieve pioggia, la notte le minaccia o neve. Con maggior fretta fa muovere il piede al suo cavallo e non fece via molta che lasciar le campagne a un pastor vede che s'avea la sua gregge innanzi tolta. La donna lui con molta istanzia chiede che le insegni ove possa essere raccolta o bene o mal, che mal sì non s'alloggia che non sia peggio star fuori alla pioggia. Disse il pastor: io non so loco alcuno ch'io vi sappia insegnar, se non lontano più di 4 o di 6 leghe, forcuno che si chiama la Rocca di Tristano. Ma ad alloggiarvi non succede a ognuno, perché bisogna, con la lancia in mano, che se l'acquisti e che se la difenda il cavalier che d'alloggiarvi intenda. Se quando arriva un cavalier si trova vuota la stanza, il castellan l'accetta, ma vuol, se sopravvien poi gente nuova, ch'uscir fuori alla giostra gli prometta. Se non vien, non accade che si muova, se vien, forza è che l'arme si rimetta e con lui giostri, e chi di lor valmeno ceda l'albergo ed esca al ciel sereno. Se 2, 3, 4 o più guerrieri a un tratto vi giungon prima, in pace albergo vanno, e chi di poi vien solo ha peggior patto, perché seco giostrar quei più lo fanno. Così se prima un sol si sarà fatto qui vi alloggiar, con lui giostrar vorranno i 2, 3, 4 o più che verran dopo, sì che s'avrà valor gli fia a grande uopo. Non men se donna capita o donzella accompagnata o sola a questa rocca, e poi v'arrivi un'altra, alla più bella l'albergo ed alla men star di fuor tocca. Domanda Bradamante ove sia quella. E il buon pastor non pur dice con bocca, ma le dimostra il loco anco con mano, da 5 o da 6 miglia indi lontano. La donna, ancor che rabbican ben trotte, sollecitar però non lo sa tanto per quelle vie tutte fangose e rotte dalla stagion che era piovosa alquanto, che prima arrivi che la cieca notte fatta abbia oscuro il mondo in ogni canto. Trovò chiusa la porta e a chi n'avea la guardia disse ch'alloggiar volea. Rispose quel che era occupato il loco da donne e da guerrier che venner dianzi e stavano aspettando intorno al fuoco che posta fosse lor la cena innanzi. Per lor non credo l'avrà fatta il cuoco, se l'ave ancor nella mangiata innanzi, disse la donna. Or va, che qui li attendo, che so l'usanza e di servarla intendo. Parte la guardia e porta l'imbasciata laddove i cavalier stanno a grand'agio, la qual non poté lor troppo esser grata, ch'all'aer li fa uscir freddo e malvagio, ed era una gran pioggia incominciata. Si levan pure e pigli all'arme ad agio. Restano gli altri e quei non troppo in fretta escono insieme ove la donna aspetta. Eran 3 cavalier che valean tanto che pochi al mondo valean più di loro, ed eran quei che il dì medesimo accanto veduti a quella messaggera foro, quei che in Islanda s'avean dato vanto di Francia riportar lo scudo d'oro, e perché avean meglio i cavalli punti prima di Bradamante erano giunti. Di loro in arme pochi erano migliori, ma di quei pochi ella sarà ben l'una, ch'a nessun patto rimaner di fuori quella notte intendea molle e digiuna. Quei dentro alle finestre e ai corridori miran la giostra al lume della luna, che malgrado de nugoli lo spande e fa veder benché la pioggia è grande. Come s'allegra un bene acceso amante che ai dolci furti per entrar si trova, quando al fin senta, dopo indugie tante, che il taciturno chiavistel si muova, così volontarosa Bradamante di far di sé coi cavalieri prova, s'allegrò quando udì le porte aprire, calare il ponte e fuor li vide uscire. Tosto che fuor del ponte i guerrier vede uscire insieme o con poco intervallo, si volge a pigliar campo e di poi riede cacciando a tutta briglia il buon cavallo e la lancia arrestando che le diede il suo cugin che non si corre in fallo, che fuor di sella e forza che trabocchi, se fosse Marte, ogni guerrier che tocchi. Il re di Svezia, che primier si mosse, fu primier anco a riversarsi al piano. Con tanta forza l'elmo gli percosse, l'asta che mai non fu abbassata in vano. Poi corse il re di Cotia, e ritrovosse coi piedi in aria al suo destrier lontano. Rimase il terzo sottosopra volto, nell'acqua nel pantan mezzo sepolto. Tosto che ella i tre colpi tutti gli ebbe fatto andar coi piedi alti e i capi bassi, alla rocca ne va, dove aver debbe la notte albergo. Ma prima che passi, Vecchi la fa giurar che n'uscirebbe sempre che a giostrar fuori altri chiamassi. Il signor della dentro, che il valore ben avveduto, le fa grande onore. Così le fa la donna che venuta era con quegli tre quivi la sera, come io dicea dall'isola perduta mandata al re di Francia messaggera. Cortesemente a lei che la saluta, siccome graziosa e affabile era, si leva incontro e con faccia serena piglia per mano e seco al fuoco mena. La donna, cominciando a disarmarsi, s'avea lo scudo e di poi l'elmo tratto, quando una cuffia d'oro in che celarsi soleano i capei lunghi e star di piatto, uscì con l'elmo, onde caderon sparsi giù per le spalle, e la scoprirò un tratto e la feron conoscer per donzella, non men che fiera in arme, in viso bella. Quale al cader delle cortine suole parer fra mille lampade la scena, d'archi e di più d'una superba mole, d'oro e di statue e di pitture piena, o come suol fuor della nube il sole scoprir la faccia limpida e serena, così l'elmo levandosi dal viso mostrò la donna, aprisse il paradiso. Già son cresciute e fatte lunghe in modo le belle chiome che tagliolle il frate, che dietro al capo ne può fare un nodo, benché non sian come son prima state. Che Bradamante sia, tien fermo e sodo, che ben l'avea veduta altre fiate, il signor della rocca, e più che prima or la carezza e mostra farne stima. Siedono al fuoco, e con giocondo e onesto ragionamento dan cibo all'orecchia, mentre per ricreare ancora il resto del corpo, altra vivanda s'apparecchia. Bradamante non vede l'ora di sedersi a tavola per poi andarsene a dormire. Ma prima le tocca ascoltare la storia del castello e dell'antica origine di quella insolita regola d'ospitalità. Il geloso signore di quella rocca, Clodione, era stato punito dal cavaliere Tristano per l'avergli negato asilo. Tristano aveva duellato contro di lui e contro 10 suoi bravacci. Vincitore, aveva dormito nel castello con la donna di Clodione, chiudendo il geloso fuori della porta, insieme a una compagna meno avvenente. Naturalmente Tristano, fedele alla sua Isotta, non aveva toccato la donna del castello, ma aveva soltanto voluto dare una lezione all'inospitale padron di casa. Clodione istituì allora la regola che volle fosse osservata anche dai suoi successori. Bradamante ascolta con un orecchio solo. A un certo punto il castellano si batte una mano sulla fronte. «Già, ma qui siete in due donne. E come si può fare? Bisogna stabilire chi è la più bella e cacciar fuori l'altra». La guerriera e l'islandese erano belle tutte e due. Viene allestita una giuria di gente del posto. Il verdetto è chiaro. La più bella è Bradamante. Ullania deve uscirsene alla pioggia a far compagnia ai tre re disarcionati. Ma Bradamante darà prova insieme di grandezza d'animo ed abilità dialettica. «Io sono entrata qua come cavaliere, non come donna. E come cavaliere resto, senza ledere i diritti della donna che vi si trova. Mettiamo che il concorso di bellezza l'avessi perso. Come avreste potuto cacciar fuori me, che mi son guadagnata il diritto d'asilo con le armi?» S'erano assisi e porre alle vivande voleano man, quando il signor s'avvide che l'alloggiar due donne è un error grande. L'una ha da star, l'altra convien che snide, stia la più bella e la men fuor si mande, dove la pioggia bagna e il vento stride. Perché non vi son giunte a men due a un'ora, l'una a partire e l'altra a far dimora. Chiama duo vecchi e chiama alcune sue donne di casa a tal giudizio buone, e le donzelle mira, e di lor due chi la più bella sia fa paragone. Finalmente parer di tutti fue che era più bella la figlia d'Amone, e non men di beltà l'altra vincea che di valore i guerrier vinti avea. Alla donna d'Islanda, che non sanza molta sospizion stava di questo, il signor disse: «Che servian l'usanza non va a donna a parer se non onesto, a voi convien procacciar d'altra stanza, quando a noi tutti è chiaro e manifesto che costei di bellezze e di sembianti, ancor che inculta sia, vi passa innanti. come si vede in un momento oscura nube salir d'umida valle al cielo, che la faccia che prima era sì pura cuopre del sol con tenebroso velo, così la donna la sentenzia dura, che fuor la caccia ove la pioggia e il gelo, cangiar si vede non parer più quella che fu pur dianzi sì gioconda e bella, s'impallidisce, tutta cangia in viso, che tal sentenza udir poco le aggrada. Ma Bradamante, con un saggio avviso, che per pietà non vuol che se ne vada, rispose: «A me non par che ben deciso, né che ben giusto alcun giudicio cada, ove prima non soda quanto nieghi la parte o affermi e sue ragioni alleghi. Io ch'a difender questa causa toglio, dico: o più bella o men ch'io sia di lei, non venni come donna qui, né voglio che sian di donna ora i progressi miei. Ma chi dirà, se tutta non mi spoglio, s'io sono o s'io non son quel che costei? E quel che non si sa non si deve dire, tanto men quando altri n'ha a patire. Ben son degli altri ancor c'hanno le chiome lunghe com'io, né donne son per questo. Se come cavalier la stanza o come donna acquistata m'abbia, è manifesto. Perché dunque volete darmi nome di donna, se di maschio è ogni mio gesto? La legge vostra vuol che ne sian spinte donne da donne e non da guerrier vinte. Poniamo ancor che, come a voi pur pare, io donna sia, che non però il concedo, ma che la mia beltà non fosse pare a quella di costei. Non però credo che mi vorreste la mercè levare di mia virtù, se ben diviso io cedo. Perder per men beltà giusto non parmi quel che ho acquistato per virtù con l'armi. E quando ancor fosse l'usanza tale che chi perde in beltà ne dovesse ire, io ci vorrei restare, o bene o male che la mia ostinazione dovesse uscire. Per questo, che contesa di seguale è tra me e questa donna, vo inferire che contendendo di beltà può assai perdere e meco guadagnar non mai. E se guadagni e perdite non sono in tutto pari, ingiusto è ogni partito. Sì ch'a lei per ragion, sì ancor per dono spezial, non sia l'albergo proibito. E se alcuno di dir che non sia buono e dritto il mio giudizio sarà ardito, sarò per sostenergli a suo piacere che il mio sia vero e falso il suo parere. La figliola d'Amon, mossa a pietade che questa gentil donna debba a torto esser cacciata ove la pioggia cade, ove ne tetto, ove neppure un sporto, al signor dell'albergo persuade con ragion molte e con parlare accorto, ma molto più con quel che al fin concluse, che resti cheto e accetti le sue scuse. Qual sotto il più cocente ardore estivo, quando di ber più desiosa è l'erba, il fior che era vicino a restar privo di tutto quell'umor che invita il serba, sente l'amata pioggia e si fa vivo, così, poiché difesa sì superba si vide apparecchiar la messaggera, lieta e bella tornò, come primera. La cena, stata lor buon pezzo avante, ne ancor pur tocca, al fin godersi in festa, senza che più di cavaliero errante nuova venuta fosse lor molesta. La goder gli altri, ma non Bradamante, pure all'usanza addolorata e mesta, che quel timor, che quel sospetto ingiusto che sempre avea nel cor, le tollea il gusto. Finita che la fu, che saria forse stata più lunga se il desir non era di cibar gli occhi, Bradamante sorse e sorse appresso a lei la messaggera. Accennò quel signore adun che corse e prestamente allumò molta cera, che splendor fe la sala in ogni canto. L'ambasciatrice d'Islanda si sente rinascere come un fiore assetato allo spruzzo della pioggia. E lo sfondo piovoso che ha dominato tutto l'episodio, forse evocato dall'arrivo di questi personaggi boreali e dalla nordica ombra di Tristano, sparge il suo velo intorno alla malinconia di Bradamante. Abbiamo trasmesso la 19ª puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.